esoterici alchimisti come il conte di Cagliostro. Dalla vita non sai cosa aspettarti, no, o te la gusti in un boccale da tre quarti, o te la cali giù come un flute, mi bevo un Bloody Mary in compagnia di Caronte, ma sto giro paga lui. Faccio un rewind come Sliding Doors, suoto il cestino del mio Windows, mi tremano le mani, forse perso tutti i brani, i pezzi che ho scritto e le battaglie che ho vinto, ma ora mi sento perso nelle trame del bosco, il lupo che ti guarda di nascosto. Allora resto immobile. Tanto